Il gastronauta di Davide Paolini. Cari gastronauti, buona giornata e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Ebbene, oggi siamo a Cibus a Parma e ovviamente l'argomento riguarda tutto il mondo del cibo a 360 gradi, ma parleremo di un argomento molto particolare di cui credo si parli ben poco in Italia in questo momento, ed è una trattativa in corso tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che si chiama Libero Scambio, il Trattato del Libero Scambio, o meglio Trattato di Partenariato Transatlantico su Commercio e Investimenti. Quindi un trattato che va al di là del cibo, va al di là del prodotto, e quindi sicuramente noi tratteremo semplicemente quello che riguarda in particolar modo le denominazioni di origine, le DOP e le IGP, e ovviamente il solito Italian sounding di cui ormai si parla spesso. Ma questo trattato di libero scambio riguarda molteplici attività della vita economica, e secondo i dati che vengono così offerti e vengono dati, addirittura si parla di un giro d'affari che potrebbe generare di 119 miliardi di euro di PIL, che è equivale a 545 euro in più all'euro per ogni famiglia. Insomma, questi sono dati statistici, probabilmente, che lasciano anche il tempo che trovano. Ma perché noi prendiamo in considerazione questo trattato di libero scambio, che, come dicevo, riguarda anche le tariffe, riguarda le barriere doganali? Insomma, un trattato molto importante che sta avvenendo direttamente tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, quindi diciamo è sovranazionale, e quindi forse anche l'Italia può fare ben poco. Questo sarà tutto da vedere, perché, come dicevo, è ancora in trattativa. Ma noi ce ne occupiamo perché se si arriva al libero scambio, questo significa, questo trattato, che negli Stati Uniti quei marchi che oggi girano, che un tempo erano Parmesan, American Grana e Gorgonzola e tanti altri, potrebbero circolare liberamente, perché le nostre DOP e IGP su quei mercati già contavano poco, oggi conterebbero ancora di meno, nel senso che avrebbero dei concorrenti sul loro stesso prodotto, e quindi non potremmo più parlare di Italian sounding, ma potremmo parlare di quei prodotti negli Stati Uniti. Ebbene, abbiamo con noi due personaggi che rappresentano due mondi. Abbiamo Nicola Cesare Baldrighi, che è presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. Quindi gli Stati Uniti, un mercato importante, Baldrighi, per il vostro prodotto. Beh, un mercato certamente rilevante, è il secondo paese di esportazione per il grana padano, e quindi per noi gli accordi commerciali che si stanno in questo momento costruendo verso il Nord America diventeranno assolutamente cruciali, soprattutto se consideriamo che ad oggi abbiamo ancora delle barriere di importazione, le cosiddette quote di importazione, per cui chi non detiene questa sorta di autorizzazione ad importare è costretto a pagare un dazio che vale circa un euro per chilo di prodotto, quindi un dazio rilevante. E poi, oltre a questo, avete una concorrenza sleale su quel mercato, perché l'American Grana, diciamo, è un'imitazione del vostro prodotto. Beh, i prodotti di imitazione sono numerosi. La cosa contro la quale noi ci battiamo evidentemente sono quei prodotti di imitazione che usano in modo improprio e direi poco, estremamente scorretto e sleale le denominazioni, cioè che cercano di impossessarsi del nostro nome. Ecco, Made in Italy significa anche prosciutto, significa anche prosciutto toscano, oltre a tutte le altre DOP. Assolutamente, noi portiamo orgogliosamente nel mondo due brand che sono sia quello della Toscana, la regione da cui nasciamo, sia poi la denominazione di origine protetta che contraddistingue la lavorazione in particolare del prosciutto. Il mercato degli Stati Uniti ci si è aperto da circa un anno e mezzo, siamo riusciti a registrare il nostro marchio sia figurativo sia verbale. Ci sentiamo comunque al momento tutelati dall'attuale legislazione e siamo molto molto felici per le prospettive che ci sta offrendo quel mercato, per le attenzioni che ci sta riservando. Non stiamo soffrendo di comportamenti sleali da parte di produttori locali, dobbiamo essere bravi noi a fornire sufficiente prodotto per quelle che sono le richieste attuali del mercato americano, e sono tante. Ecco, a differenza del prosciutto di Parma e del prosciutto di San Daniele, voi non avete appunto imitatori, quindi l'Italian Sounding per voi non è un grosso problema, mi pare di capire. Lo consideriamo un atto di attenzione, quasi di attesa direi, dove riusciamo a portare il nostro prodotto, ammetto che le eventuali copie svaniscono. Quindi appunto siete ansiosi. Però per l'amor per ora, di Dio, per siamo, ora. Esatto, siamo perfettamente consapevoli dei danni che una forma truffaldina di presentazione di prodotti che italiani non sono, dei danni che questo possono produrre a tutta la filiera produttiva, per l'amor di Dio. Baldrighi, lei pensa che in futuro ci possa essere una forma, dico, globale di tutto il prodotto italiano di difesa? Si parla di questo marchio Italia, lei cosa ne pensa? Beh, indubbiamente l'idea e la prospettiva di avere un marchio unico che tuteli e identifichi nei confronti del consumatore il vero prodotto italiano è una cosa molto affascinante e interessante. Devo dire che le difficoltà nel realizzarlo non saranno poche, e insomma bisognerà un po' costruire non soltanto il marchio e avere dei criteri affinché le aziende, i vari prodotti possano fregiarsi di questo marchio, ma poi bisognerà avere la forza di sostenerlo, e questa è la vera sfida, perché i marchi, se non hanno dietro un budget finanziario rilevante, rischiano di restare un puro atto formale e di non avere poi una risposta sul mercato. Volevo chiedere al presidente del prosciutto toscano se pensa che, diciamo, i marchi DOP e IGP col tempo diventeranno sempre meno importanti. Mi auguro proprio di no. Perché io sono convinto che il consumatore, ancora, anche il consumatore europeo, in particolare quello italiano, non sappia ancora ben distinguere appunto da un prodotto, chiamiamolo così, non col marchio di denominazione di origine, e da che cosa rappresenta le DOP e le IGP. Ci sia ancora una scarsa conoscenza, se si è investito molto poco. Forse c'è ancora molto spazio per informare adeguatamente il consumatore, però rileviamo già una attenzione da parte del consumatore verso la denominazione di protezione. È una sorta di referenza, di lettera di referenza che il prodotto che accompagna, che precede il prodotto. A quel punto però logicamente sta al prodotto e ai produttori mantenere le aspettative che quel bollino ha creato. Le faccio una domanda molto cattiva. Sì. Ma allora, cioè, lei pensa che con la DOP il consumatore distingua che quel prodotto è interamente italiano, anche con le cosce italiane che non arrivano dall'estero? Questi sono i dettami dei disciplinari che il marchio determina e protegge. Sì, ma io dico, sono d'accordo su questo, voglio capire invece se il consumatore è conscio di questo. Vedo che Baldrighi, diciamo, fa un cenno, passo la parola a lui, sentiamo. No, il tema che solleva è interessante, perché in realtà il consumatore non ha una coscienza precisa di tutto questo, e io lo riscontro, devo dire, sempre con un certo stupore quando mi chiedono se la materia prima con la quale noi facciamo il grana padano è italiana, che dovrebbe essere insita nella DOP. Però tornando alla sua domanda iniziale, cioè le DOP avranno un valore nel futuro, io ritengo che fino adesso noi abbiamo fatto troppo poco per esaltare il valore delle DOP e per portarlo a galla. E sono convinto che in realtà se saremo in futuro così bravi da spiegare quali sono i valori che stanno dietro una DOP, che vuol dire una produzione locale fatta nel territorio con il prodotto di una zona conosciuta, con una ricaduta sull'occupazione, sull'attività di quel territorio, in un'economia che è agricola e agroindustriale, potrà essere questo un concetto sposato non soltanto dalla comunità europea ma dalla comunità internazionale. Questo potrebbe essere un grandissimo slancio per anche noi. Perché... grazie, non ho più tempo. Prego. Grazie a Baldrighi e a Lodovici, quindi linea alla regia, linea anzi alle notizie sulle strade. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti molto importanti, di prodotti DOP e IGP, ma di Made in Italy a tavola in generale. Ma ne parliamo in modo particolare perché diciamo che all'orizzonte c'è un trattato di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti che porterà non pochi problemi ai nostri prodotti. Diciamo che si può vedere da due lati questo aspetto. C'è addirittura chi dice che con l'abbattimento delle barriere e quindi diciamo delle quote con gli Stati Uniti probabilmente ci saranno maggiori possibilità, però dall'altro lato cosa c'è? Che questo fenomeno di falsificazione chiamato Italian Sounding, e lo spiego, l'Italian Sounding non è altro che quei prodotti chiamati con diciamo un nome che ricorda l'Italia, creati e prodotti negli Stati Uniti o in altri paesi, che quindi diciamo ricordano il prodotto italiano ma senza aver nulla o ben poco del prodotto italiano. E allora questo trattato di libero scambio cosa porta? Porta che questa barriera tra diciamo l'Italia in questo caso, ma tutti i paesi europei, e gli Stati Uniti verrà abbattuta, per cui negli Stati Uniti si potranno continuare a produrre quei prodotti che oggi ricordano l'assonanza del nome, un qualcosa di italiano, ma in realtà di italiano c'è ben poco, se non probabilmente la mano d'opera magari di qualche italiano che è emigrato negli Stati Uniti da anni e abile produce quel prodotto. Ebbene, abbiamo con noi diciamo due esponenti di due consorzi che rappresentano l'italianità nel mondo, due prodotti molto importanti e che sicuramente di fronte a questo trattato di libero scambio e all'Italian Sounding hanno dei problemi che dovranno sicuramente risolvere, e anche in questo periodo che non c'è questo trattato di libero scambio ne hanno continuamente. E Antonio Lucisano, direttore del consorzio di tutela della mozzarella di bufala Campana DOP, e poi sentiremo anche Mario Cicchetti, direttore del consorzio prosciutto di San Daniele. Lucisano, allora, se la mozzarella diventerà mozzarella anche negli Stati Uniti, si potrà produrre ovunque, e la mozzarella campana DOP avrà sicuramente delle ripercussioni su quel mercato. Sì, diciamo che noi già partiamo da una situazione molto complessa, perché purtroppo nel nostro caso il termine mozzarella, che pure è una parola creata nel Regno delle Due Sicilie 5 secoli fa, non fu riconosciuta dall'Unione Europea come nome proprio del nostro prodotto, ma fu considerata a suo tempo una denominazione generica, per cui già oggi abbiamo una usurpazione di questo termine tipicamente italiano, tipicamente meridionale, che è appunto la parola mozzarella, che fa sì che in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, si realizzino dei prodotti che vengono chiamati mozzarella ma che nulla hanno a che vedere con il nostro prodotto. Sono sostanzialmente quasi sempre quei pizza cheese, sono quei filoni di pasta filata duri e realizzati con le materie prime più strampalate, che ci ritroviamo addirittura anche sul mercato nostro interno. Quindi diciamo che dal nostro punto di vista peggio di così non potremmo stare, per cui questo trattato di libero scambio per noi certamente non potrà portare dei peggioramenti. Siamo preoccupati perché certamente se questo trattato, per quanto riguarda le produzioni a denominazione protetta, si tradurrà in una liberalizzazione in pratica dei nomi americani simili al nostro, sarà un ulteriore aggravio di guai. Noi dovremmo prima di tutto in Italia e in Europa far sì che queste denominazioni siano univoche e siano riconoscibili dal consumatore. Pensate che noi abbiamo una situazione per cui in Italia siamo protetti come mozzarella di bufala, già nel resto d'Europa non siamo protetti come mozzarella di bufala, per cui se manca la parola campana teoricamente questo termine può essere utilizzato. Quindi davvero una Babilonia preoccupante, ed è per questo che noi in particolare come consorzio della mozzarella di bufala campana siamo particolarmente sensibili al tema del Made in Italy. Noi riteniamo che soltanto se e quando si avrà il coraggio di affrontare tutta questa materia dell'Italian Sounding con un brand ombrello Made in Italy vero, autentico, di prodotto realizzato lungo tutta la filiera con materie prime, con know-how e con processi produttivi italiani, allora soltanto potremo stare tranquilli. Bene, su questo del Made in Italy torneremo. Io ora vado da Mario Cicchetti, che è direttore del consorzio prosciutto di San Daniele, anche perché credo, e magari ora Cicchetti me lo spiegherà, loro, cioè tra l'Italia e il Canada è stato fatto un accordo di libero scambio perché riguarda proprio il prosciutto di San Daniele, e poi vedremo riguarda anche il prosciutto di Parma. È così, Cicchetti? Sì, è proprio così, perché già nel corso 2013 non hanno ancora prodotto i loro effetti normativi perché sono al vaglio dell'Unione Europea per quanto riguarda gli uffici legislativi, ma c'è un accordo di libero scambio tra Canada e Unione Europea, quindi l'Italia, che di fatto riconosce, ed è un passaggio fondamentale e importante, l'esistenza e la proprietà europea di alcune indicazioni geografiche, tra cui appunto prosciutto di San Daniele, prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, grana padano ed altre. Questo trattato ha un passaggio fondamentale che però, diciamo, è la faccia negativa della medaglia, che è quella che consente la coesistenza dei nomi canadesi che evocano i prodotti europei e quindi anche quelli italiani con i nostri autentici. Cosa significa? Significa che c'è un'azienda famosa, importante, canadese, che ha tra i suoi prodotti una linea che si chiama San Daniele, che fa mortadelle, prosciutti crudi e speck, che potrà coesistere col vero marchio europeo italiano prosciutto di San Daniele. Più di così a livello normativo non si poteva fare, perché nei paesi anglosassoni e in tutto il mondo, anche in Italia, questo succede. Chi per primo registra un marchio diventa proprietario dello stesso, a prescindere dall'indicazione geografica. E quindi in questo caso il marchio fu registrato alla fine degli anni 60, a metà degli anni 60, quando non c'erano ancora tutta una serie di norme europee e non c'era neanche quel flusso esportativo di prodotti italiani e di prosciutti in particolare in Canada. Ecco, quindi andiamo a mettere una pezza su una situazione antica, diciamo. Diciamo che se un consumatore canadese va in un negozio di alimentari e può trovare San Daniele e prosciutto di San Daniele, cioè non sapendo che uno è prodotto in Italia e l'altro che è prodotto in Canada. Sì, l'accordo prevede, nessuno ha visto ancora il documento ufficiale, ma prevede che ci siano in chiaro le zone di produzione di origine, quindi ci sono scritto Made in Canada, immagino io, certo, e Made in Italy, quello italiano. Ma entra il secondo aspetto di questa problematica, la riconoscibilità dei prodotti italiani, che sì deve essere legata alla tutela legale dei marchi, ma deve essere anche alla riconoscibilità tecnico-qualitativa e di apprezzamento del consumatore per questi prodotti. Certo. I nostri prodotti, mozzarella, campana di bufala, prosciutto di San Daniele e gli altri, hanno dei requisiti di naturalità e di salubrità che hanno dei plus assoluti anche in quei mercati lontani come quelli statunitensi e nordamericani. Questi sono anche valori che vanno enfatizzati, certo, e vanno ricordati. Ma io volevo tornare a Lucisano per un motivo che ha citato. A un certo punto ha detto: sono arrivati anche sul mercato italiano dei falsi mozzarella di bufala DOP Campana? No, io mi riferivo a prodotti che vengono venduti con il termine mozzarella proprio come brand e che sono totalmente diversi da quello che noi intendiamo per mozzarella, in questo modo provocando una, diciamo, confusione nel concetto di prodotto che noi proponiamo al mondo intero. E poi naturalmente in giro per il mondo c'è di tutto. Pensate che i mercati, ormai la globalizzazione ha portato a situazioni come questa. In Cina c'è un'azienda neozelandese che esporta mozzarella, o un formaggio sedicente mozzarella, per un quantitativo che è una volta e mezzo tutta la mozzarella di bufala che si produce in Italia. Quindi siamo davvero di fronte ad una mutazione straordinaria in cui dobbiamo porre rimedio come paese Italia, dobbiamo pretendere dall'Unione Europea che ci sia una riconoscibilità del prodotto italiano, che è quello che gran parte dei consumatori stranieri e soprattutto il segmento più alto del mercato ricerca. Senta, le faccio una domanda molto, molto dura, le voglio chiedere, ma c'è molto prodotto taroccato in Italia con il marchio mozzarella di bufala Campana? Noi abbiamo un'attività di vigilanza estremamente complessa e che porta certamente a scoprire mensilmente delle situazioni di contraffazione. Diciamo che spesso questa contraffazione borderline, nel senso che talvolta la parola campana non c'è, si utilizza impropriamente il termine mozzarella di bufala, che per legge comunque è riservato al nostro prodotto, e quindi siamo sempre lì con appunto i nostri ispettori, con gli avvocati eccetera, a contrastare queste operazioni che sono di contraffazione o di evocazione impropria. Ultimamente abbiamo anche avuto successo perché abbiamo inibito un'azienda svizzera a utilizzare il termine mozzarella di bufala in italiano, con la bandiera italiana naturalmente come al solito. Stiamo facendo la stessa cosa con un'azienda belga, ma di lavoro da fare ce n'è tantissimo. Abbiamo bisogno di un marchio Made in Italy. Lei insiste su questo, ma le voglio chiedere, voi state farete la prossima settimana una grossa manifestazione che sono le strade della mozzarella, proprio per far capire al consumatore italiano qual è la vera mozzarella? Sì, riuniamo a Pestum, quindi in una cornice spettacolare, quella dei templi della Magna Grecia eccetera, 50 chef stellati che lavoreranno, faranno show cooking con la mozzarella di bufala. Avremo anche dei grandissimi pizzaioli, Questo per far capire la differenza tra la vera mozzarella, che è la nostra, e tutto il resto che sono delle volgari imitazioni. Bene, mi sembra che anche a San Daniele presto ci sia una grande manifestazione, Cicchetti. Sì, tra un mese abbiamo una grande manifestazione in area di festa, l'ultimo weekend del mese di giugno, dove per la 30ª volta, perché sono 30 anni, si festeggia e si celebra il legame che c'è tra il prodotto e il territorio. Queste manifestazioni servono proprio per far conoscere al consumatore quello che è la zona di origine, quelle che sono le caratteristiche naturali e le tecniche che gli esperti e gli uomini utilizzano per trasformare questi prodotti. È questo che fa il Made in Italy, è questo che i consumatori nel mondo cercano i prodotti italiani, è questo che bisogna cercare di comunicare e di dare. Ecco, allora mi permetto di intervenire su queste due feste che io conosco, che diciamo conosco bene come sono fatte, come sono realizzate, qual è il prodotto che viene consumato, di distinguere queste realtà vere dalle migliaia di sagre veramente inconcepibili che ci sono in giro per l'Italia, dove mai c'è il prodotto del territorio, sono completamente inventate e distolgono anche l'attenzione, non c'è qualità, non c'è igiene e non c'è neppure una rispondenza, diciamo, fiscale su chi lavora e su chi vende. Quindi credo che sulle sagre bisognerebbe veramente fare un approfondimento. Io l'ho già fatto anni fa partecipando alla, diciamo, un quadro di come dovrebbe essere la vera sagra. Quindi attenzione, in questo periodo ci sono sagre ovunque in tutta Italia, sembra che siano 42.000 in Italia, una roba incredibile. Bene, io direi che il falso prevale sul vero. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata, cari radioascoltatori. Ebbene, siamo a Cibus e stiamo parlando di un argomento che è abbastanza sconosciuto, io credo, al grande pubblico, che è questa, diciamo, trattato che dovrebbe entrare in funzione dopo lunga trattativa tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, un trattato che parla di libero scambio. Libero scambio significa per le DOP e le IGP italiane anche ammettere di conseguenza nel mercato americano che ci sia libera circolazione di quelle merci che portano un nome di somiglianza al prodotto italiano, sono prodotte negli Stati Uniti e diciamo fanno credere che siano prodotti italiani, ma in realtà diciamo che sono prodotti magari anche da molti italiani che sono andati all'estero tanti anni fa e che in questo caso, diciamo, cadrebbe tutto questo alone dell'Italian Sounding. Italian Sounding è appunto questo fenomeno che viene quantificato in tantissime maniere, in tantissimi miliardi. Devo dire che è molto difficile dare una quantificazione. Comunque questo prodotto, diciamo, che assomiglia al prodotto italiano, che però il fatturato rimane negli Stati Uniti. E allora io con me diversi rappresentanti importanti appunto del Made in Italy. Abbiamo Giuseppe Alai, che è presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, abbiamo Corradino Marconi, presidente del Consorzio Mortadella di Bologna, e abbiamo anche, poi spiegheremo, con Roberto Brazzale, che è presidente del gruppo lattiero caseario Brazzale e Gran Moravia, perché Brazzale, diciamo, ha fatto una strada completamente diversa, invece della ricerca delle DOP e IGP, ha prodotto, produce, poi mi corregga, produce all'estero un prodotto fatto con, diciamo, la sapienza italiana, lo stile italiano, con materia prima non italiana in un paese non italiano. Quindi sicuramente c'è qualcosa di diverso, sentiremo anche il suo parere, perché indirettamente una voce diciamo diversa da quella dei consorzi è importante sentirla. Ma io voglio partire da Alai, perché, diciamo, avete vinto questa grande battaglia sul parmesan dopo lotte, diciamo, con cause, con battaglie ed altro, e ora vi potreste ritrovare in una situazione che negli Stati Uniti potrebbe circolare un prodotto che è simile al vostro con un nome americano, e che quindi tutta questa battaglia verso il parmesan potrebbe essere stata una battaglia inutile, o non è così? Ma la battaglia che abbiamo fatto e che si è chiusa il 26 febbraio 2008 con la sentenza della Corte di Giustizia, che dice che in tutto il territorio dell'Unione Europea può circolare il formaggio che si chiami parmigiano o parmesan soltanto se è parmigiano reggiano, è una battaglia chiaramente che è stata vissuta all'interno di una cultura e di un'area geografica che dava significato alle indicazioni geografiche e quindi alla protezione per queste. Ora stiamo parlando invece di un accordo che è assolutamente importante. Il 9 dicembre scorso si è siglato alla fine del V2O, finalmente dopo 30 anni di trattative, questo accordo che prevede in un tempo relativamente breve di favorire comunque un'esportazione nelle principali aree del paese, dei paesi americani, dei paesi europei, che è qualcosa come un terzo dell'export mondiale. Quindi a un certo punto si tratta di cercare di capire se dentro questo negoziato la parte che si perde è decisamente inferiore rispetto a quelle che si guadagna. Il nostro obiettivo qual è oggi? Partendo da un concetto abbastanza bifocale di visione della questione. Intanto si imita il migliore, questo è il primo aspetto, e nella logica del fatto che si è migliori se si è imitati, noi cerchiamo di lavorare sulla cultura dei consumatori di quei paesi che sapranno, dal punto di vista così, dell'approvvigionamento dell'alimento che si portano a casa, che c'è anche un altro tipo di percorso rispetto al parmesan che loro hanno normalmente a loro disposizione, che è quello appunto del parmigiano reggiano, da cui trae ispirazione questo parmesan. E noi abbiamo avuto modo di vedere che in quelle catene, là dove si fa una cultura della conoscenza, il passaggio diventa una sorta di gioco forza, cioè il consumatore che prima comprava il parmesan fatto nel Wisconsin successivamente passa al parmigiano reggiano e resta fedele. E siccome il principio della fedeltà lo si genera attraverso la fiducia del prodotto, io credo che sia assolutamente importante fare in modo che il primo che si associa nella mente sia il parmigiano reggiano e che tutti gli altri vengano invece successivamente associati come un prodotto inferiore. Dopodiché la visione da bifocale diventa assolutamente incentrata sull'interesse di ogni singolo produttore, capire quale messaggio si vuole dare e far distinguere al consumatore questo tipo di particolarità. Oggi noi abbiamo soltanto uno strumento che è quello della registrazione dei marchi. A casa degli altri non si va con le nostre regole, a casa degli altri si va con regole comuni o con le loro regole, quindi il problema è assolutamente questo. Dall'altra parte, ripeto, c'è un terzo dell'export mondiale in gioco, che significa per noi ben di più di quei 60 miliardi di cui si parla, e quindi è assolutamente importante giocare le carte in modo equilibrato, perché si va ad eliminare della burocrazia, perché si va ad eliminare delle lungaggini e perché si va ad eliminare anche delle rendite di qualcuno che, o in possesso di quote o di altre possibilità comunque di avere in mano quei mercati, consentono noi di partire svantaggiati rispetto a loro. Ecco, ho parlato di imitazione e falsificazione, allora io colgo l'occasione per ricordare a molti ristoratori italiani che diciamo la recensione che appare su TripAdvisor a firma Radio 24 Paolini è completamente fasulla e falsificata. Quindi lo ricordo perché credo che ce ne siano tantissime di queste recensioni, e questo diciamo che mi fa abbastanza male, perché ho letto delle recensioni su alcuni ristoranti veramente incredibili, e quindi non sono io. Questo ci tenevo a diciamo precisarlo ancora una volta. Ma io voglio arrivare a Brazzale, perché voglio chiedere a Brazzale appunto che non è un dopo in IGP il suo prodotto, ma è completamente diverso. Cosa ne pensa lui di questo trattato di libero scambio? Ogni trattato di libero scambio può portare delle opportunità, e certamente per chi lavora bene e ha un prodotto che ha un prestigio e un'efficienza economica, può essere solo una grande occasione. Così io credo sia per tutta l'Europa e anche per le specialità italiane. Nel caso nostro, noi siamo stati fondatori del Consorzio del Grana Padano, lavoriamo da oltre due secoli, veniamo da prima dei consorzi, e a un certo punto ci siamo accorti che in una straordinaria regione europea che si era riaperta alle possibilità di lavorarci, gli italiani potevano fare un prodotto straordinario in un'agricoltura fantastica, quando nella nostra pianura padana invece l'urbanizzazione e la riduzione delle aree disponibili impedivano di avere una produzione sufficiente per andare incontro e intercettare la domanda globale. Così abbiamo sviluppato questo progetto da italiani in una regione meravigliosa, e lo abbiamo fatto dando evoluzione alla nostra tradizione, che poi era stata negli anni 50 anche diciamo portata all'interno delle DOP, nel caso specifico di Grana Padana. Quando ci siamo accorti che il nostro nuovo prodotto, il nostro nuovo grana che veniva dalla nostra esperienza, era più buono di quello e più conveniente di quello che facevamo in Italia, nella zona tipica, è logico che abbiamo preferito sviluppare quello. Tra l'altro ci ha dato una libertà assoluta che nei consorzi è molto difficile avere, cioè quella di parlare direttamente al consumatore. Devo aggiungere anche un'altra cosa: siamo ritornati a lavorare per il consumatore e non per i fornitori di latte. Voi sapete che le DOP sono dei sistemi che istituzionalmente sono stati realizzati per massimizzare il profitto dei produttori di latte, cioè di chi sta a monte. Noi invece preferiamo massimizzare il beneficio nel rapporto di qualità e prezzo per chi sta a valle, cioè per il consumatore. Questo lo facciamo adottando ad esempio una straordinaria trasparenza nella comunicazione, che ci ha permesso per esempio di indicare nella provenienza, non solo l'indicazione di provenienza che la Coldiretti chiede da tanti anni e non ottiene, noi lo facciamo volontariamente sulle nostre confezioni, ma anche indicando con un'etichetta multimediale addirittura ciascuna azienda agricola fornitrice. Se noi prendiamo una DOP come quella per esempio che abbiamo citato del Grana Padano, in realtà il consumatore non conosce la provenienza della materia prima se non con un'approssimazione di 500 km, perché la pianura padana è grande 500 km, per cui non può sapere se la materia prima viene da uno straordinario paese come Alfianello, per dire, o da Cremona, oppure da Porto Marghera, oppure da Seveso, cioè non può sapere in realtà l'esatta provenienza. Ecco, noi siamo liberi di creare un prodotto che ha delle caratteristiche intrinseche di qualità straordinaria in una filiera ecosostenibile con un rapporto di 5 ettari per capo in lattazione e assenza totale di aflatossine, che purtroppo è un problema che la pianura padana ha purtroppo periodicamente, e lo facciamo seguendo la nostra tradizione. Noi siamo stati prima delle DOP e siamo anche dopo le DOP, e pensiamo che questo tema del libero scambio sia un tema che può essere pericoloso solo per chi non ha coraggio di misurarsi con il mercato e chi non ha coraggio di evolvere il proprio prodotto. Chi tiene bloccato il proprio prodotto ad uno standard antico per godere di un beneficio, di una rendita di posizione, è chiaro che avrà paura di questo. Nel caso specifico delle denominazioni potrei aggiungere anche che se noi guardiamo non possiamo pretendere che tutti i favori politici che hanno permesso al sistema delle DOP di conservare la protezione esclusiva su parole come ad esempio grana, protezioni che esistono e danno per motivi politici in Europa, non è pensabile che possano avere ovunque nel mondo. La parola grana è una parola generica. Il grana è l'unico prodotto che, se togliamo grana, se togliamo parmesan, che è invece un'addizione generica che si usa all'estero, è l'unico prodotto che non ha un termine comune con cui definirlo. Allora è possibile fare una privativa sui prodotti, ma non sul Devoto Oli, non sul dizionario della lingua italiana. Sarebbe corretto ritornare a discutere anche in Europa se veramente la parola grana può essere sottratta all'uso comune. Io voglio arrivare da Corradino Marcone, abbiamo detto consorzio di tutela della mortadella di Bologna, ma la mortadella si sa è molto imitata specialmente in Sud America. Ecco, lei cosa ne pensa del marchio, di un sovramarchio addirittura di cui si parla Made in Italy, un marchio che non sarà proprio Made in Italy ma che dovrà rappresentare il Made in Italy? Ma faccio una piccola premessa. Io credo nel libero scambio, credo nel libero mercato, perché credo che quando un prodotto è di qualità e ha delle caratteristiche uniche come hanno i prodotti italiani, possono veramente varcare qualunque frontiera senza avere paura di niente e di nessuno. L'unico problema è quello che ce le aprono queste frontiere, perché tutte le volte che un prodotto che si chiama italiano va all'estero viene in qualche modo o per qualche motivo fermato. Allora dobbiamo piantarla, dobbiamo fare in modo che i nostri prodotti possano arrivare dappertutto. Quando arriviamo dappertutto noi vinciamo sempre, perché la qualità dei prodotti italiani è vincente. Faccio l'esempio della mortadella. Se voi andate in Sud America, andate in America, sono appena tornato adesso da New York, la mortadella esiste, c'è, ma è marron scura, perché loro adoperano materie prime e tecniche di produzione che svalorizzano il prodotto mortadella. Io non faccio una battaglia al nome mortadella, però non mi possono impedire di unire mortadella a Bologna, perché se in un paese si imita anche il nome di un luogo, di un capoluogo di provincia, allora diventiamo veramente anacronistici. Pertanto la mia risposta è: ci aprono le frontiere, ci facciano andare all'estero, ci mettono in condizione di vendere i nostri prodotti. Il nostro impegno è questo. Se ci danno questa possibilità, noi non dobbiamo aver paura di nessuno e di niente, tantomeno dell'Italian Sounding. Beh, certo, l'Italian Sounding a questo punto crollerebbe di per sé, perché ci sarebbe una competizione pari, perché se aprono le barriere ci sarebbe la possibilità appunto di esportare ancora di più, non ci sarebbero più le quote probabilmente, come ha detto prima Alai. Quindi sicuramente potrebbe anche questo essere un vantaggio, però ai posteri la Rudolfsson, prego. Sì, poi secondo me sarebbe assolutamente interessante riuscire a studiare dal punto di vista del marketing questa cosa, che spesse volte viene invece interpretata sotto il profilo politico. Nella testa dei consumatori il top of mind è la nostra fortuna, Cioè il fatto di sapere che c'è un prodotto superiore che in ogni testa del consumatore è ben associabile alle imitazioni diventa un viatico per far conoscere la qualità migliore, quindi non dobbiamo spaventarci di chi cerca di imitarci, ma dobbiamo cercare di fare in modo che il consumatore sia nelle condizioni di distinguere quello che è un tentativo di imitazione rispetto al prodotto originale, perché nella sua mente immediatamente schizza la migliore qualità, come se noi parlassimo di un'automobile, immediatamente nella nostra mente ci viene in mente qual è il miglior, la migliore auto e qual è la peggiore. Così come decidiamo di andare in una pizzeria quando usciamo e in un secondo ne scartiamo 30 e scegliamo una di quelle, la 31esima. Quindi questo modello, secondo me, va interpretato un po' di più sotto il profilo del marketing rispetto al profilo. Bene, abbiamo finito il tempo, mi spiace. Grazie a Dalai, grazie a Brazzale, grazie a Marconi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di prodotti DOP e IGP, ma in un quadro completamente diverso da quello che abbiamo così discusso tante altre volte su questa trasmissione. Parleremo in ripercussione a questo trattato di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, trattato che avviene transnazionale perché lo porta avanti la Comunità Europea con i propri dirigenti, i propri esperti, bypassando i paesi. Quindi dibattito su questo, c'è chi dice che porterà ricchezza ai prodotti italiani perché abbatterà le tariffe, abbatterà anche le quote e abbatterà in un certo senso anche l'Italian Sounding, perché se poi negli Stati Uniti si potranno produrre prodotti con assonanza italiana, bandiera quasi italiana, quindi facendo magari far credere che quel prodotto è un prodotto italiano, magari invece è prodotto su un territorio americano o altrove, beh, questo insomma credo che cambi molto per molti produttori, in particolare per un produttore che abbiamo qui, Antonio Auricchio, famosissimo produttore del provolone, che credo che in America abbiano non poche imitazioni. È così, Antonio? Sì, tantissime. Purtroppo fuori dall'Europa, dove c'è una tutela, ovunque nel mondo possono fare formaggi che imitano i formaggi italiani. Il provolone è uno di questi, ma per farti un esempio ancora più eclatante, in America producono il romano, che teoricamente è fatto con latte di pecora, con latte di mucca, e quindi questo, o il gorgonzola, che non sanno neanche come si pronuncia, fino a 15 anni fa era blue cheese, adesso ovviamente, perché come hai detto tu, perché tutto quello che è italiano, tutto quello che suona o richiama l'italianità è vendibile, si riesce a spuntare prezzi superiori, e questo ovviamente danneggia noi, ma tutte, io parlo in generale, tutte le aziende italiane, perché il consumatore è convinto, io sono certo, nonostante i nostri amici tra virgolette americani dicono di no, che sia convinto di comprare un prodotto italiano e che invece non lo è. Se poi ci aggiungiamo che molte volte usano la bandiera italiana, il tricolore, che purtroppo non è difeso neanche dalle nostre autorità, e quindi proprio la confusione è assoluta. Beh, tu pensi che questo trattato di libero scambio quindi non porterà un business maggiore con l'abbattimento delle barriere doganali e delle quote, ma un danno superiore al prodotto italiano? Se il trattato non prevede la tutela dei nomi come provolone, come parmesan, perché parmigiano reggiano è già difeso, ma parmesan no, o gorgonzola eccetera, sicuramente sarà un danno, nel senso che renderà ancora più facile produrre dei prodotti similari. Se invece il trattato abbatterà le barriere, ma farà anche una protezione sulle denominazioni che sono italiane, questo invece potrebbe essere favorevole. Da quello che ho letto, penso che gli americani su questo punto però non cedano, sono molto la lobby di produttori di lattiero-caseario, di prodotti lattiero-caseario americana è molto forte, non credo che cederà su questi nomi. Ecco, chi ha avuto danni enormi in Canada per lungo tempo è il prosciutto di Parma, perché il prosciutto di Parma, diciamo, veniva venduto tranquillamente con questo nome, con questa dicitura in Canada per tanti anni, ma ora c'è stato un trattato, mi pare, con il Canada che ripropone appunto una normalizzazione di questo rapporto. Fanti? Sì, in Canada si è riscontrato proprio in questi ultimi tempi un accordo di libero scambio con l'Unione Europea, in base al quale sono state riconosciute e protette reciprocamente tutta una serie di indicazioni geografiche, quindi nomi di prodotti a indicazioni geografiche, tra cui il prosciutto di Parma, che finalmente ora potrà essere venduto col proprio nome, mentre fino a poco tempo fa doveva essere venduto sotto la denominazione The Original Prosciutto, perché una ditta canadese aveva registrato il nome Parma e ci impediva di vendere l'originale prosciutto di Parma con il nostro nome. E quindi fortunatamente questo accordo di libero scambio tra Canada e Unione Europea ha chiuso la vicenda e ha permesso la protezione delle indicazioni geografiche. Ed è proprio quello che noi auspichiamo possa essere preso come riferimento nelle trattative tra Unione Europea e Stati Uniti per il libero scambio, quindi questo punto di partenza canadese che in effetti gli americani non amano assolutamente e hanno già dichiarato all'Unione Europea che non intendono partire da quella posizione che invece è la nostra posizione. Quindi posizione molto più dura per quanto riguarda gli Stati Uniti, ovviamente. Gli Stati Uniti sono molto più fermi e irremovibili rispetto ai canadesi da questo punto di vista. Quindi loro vogliono, diciamo, difendere i loro prodotti anche se hanno denominazioni che ricordano molto quelle italiane e delle doppie dell'IGP assolutamente non vogliono tenere in conto. E così è, Antonio? Sì, così è. Pensa che addirittura hanno creato un'associazione, una specie di consorzio dei prodotti generici. Addirittura? Addirittura, sfinanziato dallo Stato. Adesso non ti so dire se a livello nazionale o dai vari stati, sono sicuro che il Wisconsin è uno dei finanziatori, il Wisconsin è uno dei più grandi produttori di latte. Hanno creato un consorzio per la difesa delle denominazioni generiche, che è una contraddizione. Prego. E addirittura recentemente, prima 120 senatori, poi 52 senatori hanno scritto due lettere distinte al presidente Obama dichiarandosi contrarissimi a qualsiasi forma di accordo che riguardi il lattiero caseario o le carni con l'Unione Europea riguardo proprio specificamente le indicazioni geografiche. Quindi il Congresso americano si è già schierato contro la possibile intesa tra Unione Europea e Stati Uniti rispetto proprio alla difesa dei nostri prodotti. Quindi diciamo che l'Italia in questo trattato sicuramente è quella più, diciamo, verrà più colpita di tutte, perché abbiamo, mi sembra, 279 prodotti di denominazione territoriale, mentre gli altri paesi comunitari ne hanno molto meno. E quindi chi guiderà la danza a Bruxelles con gli americani difenderà gli interessi italiani. Questo è il punto, perché c'è chi dice che le barriere aumenteranno il giro d'affari, l'abbattimento delle barriere appunto e delle quote. C'è invece, mi sembra di capire, che molti produttori come voi siete molto preoccupati da questo trattato di libero scambio per il vostro prodotto, proprio per le esportazioni. Sì, se la linea è, come ti ho detto prima, quella che non c'è tutela ma solo un abbattimento delle barriere, tieni conto che è vero, io ti parlo del formaggio, non conosco i prosciutti che pagano il 15%, però solo sui formaggi di vacca, per esempio tutti i formaggi di pecora non hanno dazi, quindi alla fine è molto più importante la difesa delle denominazioni per poter avere un beneficio le aziende italiane nell'export, se no ci copiano ancora di più di quello che stanno facendo adesso. Per il momento a livello di Commissione Europea questa, la difesa della protezione delle indicazioni geografiche, è ancora come priorità il mandato che ha il Commissario Europeo nelle negoziazioni con gli Stati Uniti. Speriamo che l'Italia faccia sì che questa priorità venga mantenuta fino in fondo nel tavolo negoziale. Ma peccato che durante questa campagna, diciamo, per l'Unione Europea, per le votazioni del Parlamento, questo qui è un tema che viene trattato veramente poco, ne ho sentito veramente parlare così sommessamente da qualcuno, ma io credo che probabilmente ci sia anche poca preparazione per questo. Ma io voglio farvi un'ultima domanda: cosa ne pensate invece di un marchio che vada al di là delle DOP e dell'IGP, un marchio che sia un Made in Italy, diciamo, non Made in Italy perché si sa che non può essere un marchio, già, è già stato diciamo dimostrato che non può essere un marchio, ma un qualcosa che è appunto un simbolo che identifichi tutto il Made in Italy italiano nel mondo. Lei cosa ne pensa? Se fosse un vero italiano, una certa... Sì, sarebbe sicuramente una cosa interessante e utile, bisogna però farla anche molto comunicare, quindi e questa dovrebbe essere una cosa che fa a livello governativo, che il consumatore sappia che esiste questo marchio e che differenzia i prodotti realmente italiani dagli altri, perché sennò se il consumatore non lo sa, no, non serve a nulla. Ecco, proprio in funzione di quello che diceva Auricchio sull'importanza che il consumatore conosca il valore, l'italianità, devo dire che dopo i GP sono poco conosciuti, ecco, già come valore in Europa, e quindi le ricerche lo mettono in evidenza. Bisognerebbe investire su questo, secondo me. Ecco, io voglio proprio tornare su questo argomento. Io sono convinto da lungo tempo che in realtà il consumatore non sappia cosa acquista quando, cioè, vede un prodotto dove c'è scritto DOP o IGP, non sappia addirittura la differenza tra i due, poi lasciamo perdere, ma neppure c'è la coscienza di capire cosa c'è dietro quel prodotto. Quindi io credo che prima di tutto bisognerebbe anche spiegare questo e investire. In realtà non si è fatto niente di tutto questo, è evidente che i consorzi non hanno tali e tanti fondi per poterlo fare, questo dovrebbero farle sicuramente a livello transnazionale, avrebbe dovuto intervenire la Comunità Europea tanti anni fa per spiegare cosa andava a difendere e come viene concesso questo marchio. Io ho l'impressione che tutto questo invece sia tabù. Auricchio. Sì, sono d'accordissimo con te, cioè se uno crea un qualcosa sia a livello della singola azienda, ancora più a livello di un'immagine, deve essere comunicato e spiegato al consumatore. Nella riforma delle promozioni in corso a Bruxelles è proprio previsto un capitolo specifico per poter comunicare il valore del DOP IGP, ciò che dovrebbe fare la Commissione, hai perfettamente ragione, da tanti anni, ma il consumatore europeo nelle ultime ricerche è venuto in risalto proprio il fatto che non ha alcuna coscienza del valore che c'è dietro nella tradizione, nella storia, nel legame al territorio di questo nostro DOP IGP. Quindi hai proprio ragione, occorrerebbe un lavoro molto puntuale e preciso sul consumatore. Beh, io guardo con molto entusiasmo quando vedo delle piccolissime produzioni che diciamo hanno il fregio della DOP IGP, ma mi chiedo come possono fare a comunicare appunto queste piccolissime, visto che Prosciutto di Parma, visto che Consorzio di Difesa del Provolone e tanti altri che sicuramente hanno mezzi maggiori perché sono esportate e sono conosciute, già non riescono a fare loro. Io mi chiedo, sì, diamo tante DOP e IGP, però cerchiamo una volta che vengono concesse anche di finanziarle e di farle conoscere, altrimenti veramente serve a ben poco. Bene, abbiamo fatto questo lungo viaggio attraverso questi problemi che porterà questo trattato tra Unione Europea e USA, che dovrebbe essere anche secondo me di attualità in questo periodo che si parla appunto di elezioni europee, ma se ne parla veramente poco. Un trattato che porterà sicuramente degli sconvolgimenti economici, molti dicono che porterà un giro d'affari superiore, però bisogna vedere se appunto le produzioni, quelle pregiate, quelle italiane, quelle con cui è riconosciuto il Made in Italy, avranno dei benefici o invece avranno dei danni veramente superiori dalle imitazioni che vengono fatte in giro per il mondo. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio la regia, la redazione e vi do appuntamento per la prossima settimana e vi auguro un buon weekend a tutti.